in primo piano. Giovedì 31 marzo, l'attualità politica, la situazione a Lampedusa, questi titoli delle prime pagine dei giornali. Il Sole 24 Ore invece si concentra su Basilea 3, crescita a rischio, minori prestiti a imprese e famiglie italiane per 436 miliardi. Questo è l'allarme lanciato dal Sole 24 Ore secondo una ricerca Ambrosetti. L'attualità, appunto, Corriere della Sera, rissa alla Camera, monetine in piazza. Per Repubblica, prescrizione breve, scoppia la rivolta. La Stampa si concentra su Lampedusa, il Premier, svuoterò Lampedusa. Per Libero, rissa Montecitorio, Fini perde la testa. Per Il Fatto Quotidiano, golpista e bugiardo, è Berlusconi, si riferiscono a lui. Per Il Giornale, riecco Berlusconi a Lampedusa. L'Unità titola su sfondo nero, vergogna, vergogna, vergogna. Per Il Manifesto la faccio franca e c'è la foto di Berlusconi. Per Il Messaggero, giustizia, bagarre alla Camera. Vedremo che cosa è successo alla Camera. Io però voglio partire da una segnalazione che riguarda il Madoff de Noantre. Questa vicenda mi appassiona tantissimo. Cioè colui che avrebbe truffato a Roma una serie di VIP non indifferenti, prendendo soldi a prestito e promettendo degli interessi altissimi, che poi ovviamente tutte queste cose finiscono in truffa generalmente, ma bisognerà vedere. Allora, intanto il Messaggero lo mette in prima pagina: nella lista del broker almeno 500 nomi, si allarga il numero di persone, c'è anche un politico. Anzi, due politici, c'è il deputato del PD Pier Domenico Martino, secondo il Messaggero che ne parla a pagina 12, c'è il re del ciambellone più famoso a Roma, Franco Gargani, c'è un prelato, c'è un sottosegretario di cui non si fa il nome, tra i raggirati anche i fratelli Vanzina, Enrico e Carlo, poi vabbè c'è Paolo Guzzanti, Sabina Guzzanti, Samantha De Grenè, l'ex calciatore Ruggero Rizzitelli, Stefano Desideri, ci sono vari nobili. Il PD Domenico Martino non ha fatto neanche denuncia, dice non sono neppure soldi miei, sono di mia moglie. E anche il Corriere della Sera vi dedica una pagina, pagina 27, la stangata di Giampi, il Madoff dei Parioli, che ha incastrato, che ha incantato per la verità 700 VIP. C'è anche Enrico Vanzina. Goffredo Buccini fa un'intera pagina, a un certo punto c'è Claudia Ruspoli, figlia del principe Lilio. Nobile, questa persona di nobile davvero e da nobile non si è comportato, ma non le farò i nomi dei miei compagni di sventura. Il racconto di una persona che Buccini definisce come il ragazzo di casa nella Roma Pariola, quello con cui manderesti tranquillo tua sorella a mangiare una pizza da Celestina, belloccio, educatissimo, inoffensivo, era il vicino di sdraio sulla spiaggia di quella Roma, la Castiglioncello ruggente degli anni 60, dove l'ombra dell'ombrellone accanto rinfrescava i Risi e i Vanzina, Susi Cecchi d'Amico e Mastroianni, Sordi e Panelli. Sua mamma è la nobildonna Edwige Delfino, cui la morte nel 2009 ha risparmiato questa vergogna. È il racconto, insomma, di Giampiero Castellacci de Villanova, una storia di amicizia tradita, di memoria offesa, colui che sarebbe a capo di questa mega truffa. È entrata in questa mega truffa anche Sabina Guzzanti. Noi nei giorni scorsi l'abbiamo cercata, Sabina Guzzanti, tramite il suo ufficio stampa, ci ha detto che non voleva parlare di questa vicenda. Il Corriere l'ha raggiunta con Fabrizio Roncone, a pagina 27. Non perdetevi l'intervista, spettacolare. Certo, Fabrizio Roncone fa una cosa che con Sabina Guzzanti non si dovrebbe mai fare. La chiama al telefonino. Io non capisco, inizia con voce tremante la Guzzanti. Cosa, signora? No, dico, come si è permesso di chiamarmi sul cellulare? Lei non deve. Ma mi spiace, non me ne frega niente se le dispiace, capito? Io ho un ufficio stampa, chiami il mio ufficio stampa. Ma guardi, signora, io non credevo. Non credeva, non credeva. Che cosa vuole da me? Questo è l'incipit dell'intervista. Beh, guardi, se mi lascia spiegare, non ho pure avuto il tempo di dire buongiorno. Ecco, buongiorno, allora cosa vuole? E poi racconta, voi state raccontando male questa vicenda, la notizia è che io sono stata truffata, punto e basta. Ora, per assurdo, dovrei spiegare, invece sembra che debba giustificarmi di qualche mio investimento. Pazzesco, no? Non trova? Beh, l'hanno accusata sui blog di aver cercato un guadagno facile coi trucchi della finanza. Ma lo sa bene anche lei che sui blog scrivono quelli più ossessionati. Beh, adesso, signora, non offenda quelli che scrivono sul blog, chiede Fabrizio Roncone. Io non li offendo, ma è così, sono gasati, poverini. Hanno letto certi articoli e si sono messi a pontificare, a dirmi quello che avrei dovuto fare e non fare con i miei soldi. Qualcuno ha detto che dovrei aprire un bar. Io, la barista, no? Dico, si rende conto di qual è il livello della polemica? E poi dici, ho scritto una lettera contro il direttore di Repubblica, è vero, lo ammetto, esagerato, ho scritto in preda a una crisi nervosa. Però è andata, la lettera l'ho pubblicata e va bene così. Sono una Sabina Guzzanti irritatissima anche per la chiamata diretta sul cellulare. Come definire quello che è successo ieri, la giornata politica fuori e dentro il Parlamento? I giornali sono molto severi anche nei commenti. Beh, vediamo... La piazza assedia Montecitorio, volano monetine su La Russa, pagina 3 del Corriere. Buffone, venduto, gridano, insultano, lanciano monetine come il 30 aprile del 93 i manifestanti che assaltarono l'hotel Rafael dove era serragliato Bettino Craxi. Racconta così Monica Guerzoni sul Corriere. Sono le 6 del pomeriggio, i manifestanti sono una cinquantina, in pochi minuti la protesta cresce, il sottosegretario Daniela Santanchè, issata su 12 centimetri di tacco, sfida la folla. Pinocchio le gridano, bugiarda, ma anche puttana. E così il sit-in organizzato dal Partito Democratico diventa un caso politico. Come è stato possibile che i manifestanti abbiano potuto schierarsi a una manciata di metri dall'uscio di Montecitorio? Chiede per esempio alcuni deputati questori della Camera, lo chiedono al questore di Roma, Francesco Tagliente. E poi esce ancora La Russa, io non ho paura di nessuno, non pensate di intimidirmi, bastano i fischi, buffone, venduto, fascista, razzista, la piccola folla spinge, poi le monetine, mafiosi, leccapiedi, ladri, assassini, queste le urla che vengono dalla folla, fate processare Berlusconi, poi La Russa entra in aula e lì succede la seconda parte della rissa più... strettamente politica, come racconta anche Francesco Bei a pagina 3 di Repubblica, Montecitorio diventa un'arena, il vaffa di La Russa Affini, che risponde fatti curare, sei malato. Alle 18.30, cioè mezz'ora dopo la contestazione di piazza, La Russa parla, risponde Franceschini, a quel punto La Russa scatta in piedi, forse avete visto le immagini, Fini lo richiama all'ordine e La Russa si produce in un eloquentissimo gesto accompagnato da un ma vaffanculo. Fini sospende la seduta, non le consento di insultare la presidenza, spegne il microfono, gli urla come ti permetti e poi quello è da curare, curatelo. E ancora c'è chi dice, a questo punto si scatenano addirittura delle accuse molto gravi, il PD Sandro Gozzi, La Russa aveva sbagliato la dose, il Fignano Granata ha cambiato pusher, Pierluigi Mantini dell'UDC invoca un test antidroga, insomma la situazione completamente degenerata. Pagina 4 del Fatto, il titolo è questo, Camera mai vista, La Russa a Fini, ma vaffanculo. Questo il titolo a tutta pagina. E, Daniela Santanchè, il sottosegretario, fa un'intervista al Messaggero a pagina 3. Fini ha chiuso i lavori perché aveva un impegno. Diciamo che ha preso la palla al balzo per liberarsi la serata. E poi di La Russa dice il suo gesto era rivolto all'aula nella concitazione del momento. Può scappare, ma si è già scusato. Sta di fatto che questa scena di La Russa, del ministro La Russa, non è piaciuta a molti, anche all'interno della maggioranza. Per esempio Scajola attacca l'ex collega, dovevi fare questo casino? Questo è riportato da tutti i giornali, Scajola a un certo punto si avvicina, c'è il capannello dei deputati dopo la vicenda e dopo lo scambio di insulti tra La Russa, di La Russa e Fini, Scajola si avvicina, affronta La Russa e gli dice... Si possono fare queste cose in Parlamento? Bisognava fare questo casino? Al che La Russa risponde, come dici, scusa? Ed ecco che arriva l'onorevole Paolo Russo, che è un fedelissimo di Scajola. Ti pare una cosa normale quella che hai fatto? Il ministro gira i tacchi, se ne va. E un altro scaiolano, Roberto Tortoli, non digerisco questi comportamenti, a tutti noi questo piace davvero poco, poco. E poi ancora Paolo Russo, usando il lei con La Russa, se la smette di fare cagate è meglio. Un La Russa che dunque è attaccato dallo stesso Scajola anche per il secolo XIX, l'Ignazio furioso spacca il PDL. Scajola dice: non morirò certo fascista. Questi sono metodi inaccettabili. E c'è da dire che il fatto che la scenata di La Russa non si è piaciuta all'interno della maggioranza e del governo lo certifica anche la prima pagina del Giornale, che titola su Berlusconi: riecco Berlusconi che va a Lampedusa. Ma poi emergenza giustizia, assalto al governo, ed ecco qui pasticcio La Russa, ed è a pagina 7 che il Giornale certifica di un Berlusconi che sarebbe furibondo col titolare della difesa. Il suo vaffa contro il presidente della Camera blocca infatti l'approvazione del processo breve, perché ci siamo dimenticati tutto da che cosa è generato. Ieri c'è stata PDL e Lega che hanno chiesto, hanno ottenuto l'inversione dell'ordine del giorno alla Camera in modo da favorire una accelerata all'approvazione del processo breve. Da qui si è scatenato il sit-in del PD e poi tutto che è degenerato. Però questa scena che cosa comporterà? Comporta che Fini ha sospeso la seduta della Camera, che questa mattina si discuterà del gesto di La Russa e di eventuali prove TV per eventuali sanzioni. Tutto questo insomma rallenta l'approvazione dell'iter che la maggioranza voleva del processo breve. Ed ecco perché Berlusconi sarebbe furibondo, così scrive il Giornale, con La Russa. In privato Berlusconi non ci gira intorno, ha perso la testa, questo direbbe il ministro della difesa, perché a questo punto la conseguenza, racconta il Giornale, è che Fini appunto sospende la seduta, non ci sarà seduta notturna, la mattinata di oggi se ne andrà a discutere del caso La Russa. A questo punto insomma il processo breve rischia di slittare alla prossima settimana invece di essere approvato in questa settimana come voleva la maggioranza. I commenti, come dire, sono molto duri. In prima pagina nel Corriere l'editoriale di Pierluigi Battista, sull'orlo del precipizio, questo è il titolo: la politica italiana ha conosciuto una delle giornate più convulse e sguaiate della storia repubblicana. E scrive Battista: non un urlo rauco, non un'invettiva, un gesto di disprezzo, un'espressione smodata, una manifestazione d'odio. Tutto concentrato in una manciata d'ore e nessuno ne esce con un profilo di decoro e di innocenza. Nessuno. E Stefano Folli sul tradizionale Punto, a pagina 8, la scommessa più incerta, andare avanti così fino al 2013, si chiede Stefano Folli, è credibile che si vada avanti così ancora per 2 anni, fino al 2013? 2 mesi fa chi si augurava elezioni anticipate forse aveva visto giusto, soprattutto perché sotto gli occhi di tutti il quadro che si fa sfilacciando. E tra l'altro Stefano Folli mette anche le dimissioni del sottosegretario all'interno Mantovano, apparse un segnale inquietante. Uomo d'ordine, persona seria, Mantovano testimonia col suo abbandono le ombre in cui sono avvolte le politiche dell'immigrazione. Eh sì, perché l'altro tema che trovate sui giornali, accompagnata a queste delle dimissioni di Mantovano, è legato alla questione immigrazione. Allora ieri Berlusconi è andato a Lampedusa, lo sapete. Il Giornale dice che è lo stile del "che pensi mi", no? Berlusconi che ha promesso tante cose, tra cui anche il casinò, esenzioni fiscali, il piano del colore per rimettere a posto Lampedusa e farne una nuova Portofino. Ha promesso anche in 60 ore al massimo di liberare l'isola. Anche per Libero, Silvio Show a Lampedusa, ha preso una casa pagandola 1,5 milioni di euro a Cala Francese. Ha detto con una battuta: beh, così mi accuseranno di essere in conflitto di interessi, di fare il bene di Lampedusa perché ho comprato una casa, ma sì, facciamoci i nostri interessi. Questa è una battuta riportata da Repubblica. Ha detto: sono un lampedusano, e qualcuno ironizza paragonandolo al "Ich bin ein Berliner" di Kennedy, cioè sono un berlinese. C'è Repubblica che lo accusa di essere Silvio la qualunque, c'è la controfigura di Cetto la qualunque, c'è invece il Giornale che titola in prima pagina: riecco Berlusconi finalmente che scende in campo con la sua personalità, col suo eloquio, con le sue promesse concrete. Insomma, comunque la vediate, c'è questa rappresentazione di Lampedusa definita sia come un Berlusconi che scende in campo, sia come uno show da parte di molti. Non mancava, come in tutti gli show, non poteva mancare la barzelletta. E allora la racconta Libero, Roberta Catania, a pagina 4, dicendo: Berlusconi in 5 minuti, appena ha preso il microfono, ha cambiato l'umore di tutti i lampedusani, prima depressi, arrabbiati, li ha portati tutti dalla sua parte, anche grazie alla barzelletta. Durante un'indagine, racconta Berlusconi, si chiede a un campione di donne se vogliono fare l'amore con Berlusconi. Il 30% risponde, magari. E l'altro 70%? Di nuovo? Questa è la barzelletta di Berlusconi. La casa numero 29, questo per Repubblica. Ho comprato una villa qui, ora sono lampedusano anch'io. Ci sono ovviamente le foto dovunque della villa di Berlusconi, che ha anche detto sì, è per il conflitto di interessi, così farò il bene di Lampedusa. E poi ha detto do anche la possibilità a chiunque sarà scontento delle mie azioni di andare ad imbrattare quella casa, pagata pare 1,5 milioni di euro. 2 piani, 5 stanze, 3 bagni, un giardino da 2000 metri, un vialetto che porta direttamente in una spiaggia a 50 metri. Come detto, la questione immigrazione però si porta dietro le dimissioni del sottosegretario Alfredo Mantovano. Troppi in Puglia, si lamenta per la situazione di Manduria. Il sottosegretario polemico col governo, titola a pagina 13 il Corriere della Sera, è stato raddoppiato il tetto degli immigrati e quindi lascia. Ha lasciato anche il sindaco di Manduria in provincia di Taranto, ma il Corriere racconta che da Manduria alla Toscana c'è un po' di rivolta, travolti dalle scelte sbagliate. Oggi c'è il Consiglio dei Ministri straordinario in cui si dovrà decidere appunto lo smistamento o se dovranno essere rispediti direttamente in Tunisia, e ci sono i migranti, e ci sono ovviamente delle proteste da parte degli amministratori locali che accusano più o meno il governo di non avere informato nulla e di far calare dall'alto delle decisioni. Anche Nichi Vendola dice: il presidente Berlusconi sposta il problema da Lampedusa a un altro posto. Tra l'altro c'è una tragedia raccontata da tutti i giornali, che è quella di un gommone affondato, così racconta uno dei testimoni arrivati a Lampedusa. Un gommone affonda, 11 vittime, annega anche un bambino di 1 mese. Questo è il racconto, a pagina 8 e 9 del Corriere della Sera, di uno dei feriti che affermano di avere viaggiato su uno stesso gommone che sarebbe naufragato nel canale di Sicilia. Ovviamente le testimonianze sono di quelli che si sono salvati e sono arrivati, sono testimonianze da verificare. Un gommone partito 4 giorni fa dalla Libia, 17 migranti provenienti da Gambia, Sudan, Eritrea e Niger, è stato travolto dalle onde, sono finiti tutti in mare, 11 sono morti, compreso un bambino di, no, non 1 mese, 1 anno, ma insomma poco cambia, scomparso tra i flutti con la sua mamma. Questo raccontano alcuni dei testimoni, uno dei sopravvissuti arrivato ieri e soccorso a Lampedusa. Insomma, la situazione è questa sul fronte immigrazione, sul fronte politico. Il tema strettamente politico del nostro sondaggio, voglio ricordare, è questo, quello del rimpasto di governo. Secondo voi ci sarà un allargamento della compagine di governo? Al di là del Mediterraneo invece c'è la situazione libica. Il tema che trovate più sviluppato sui giornali riguardo la Libia è: bisogna armare i ribelli? Questo si chiede alla comunità internazionale. Tra l'altro approfitto perché noi sulla nostra pagina di Facebook, la nostra 24 mattino, stiamo mettendo da giorni foto di ribelli. Ci hanno accusato di prenderli in giro, non stiamo prendendo in giro niente, non lo facciamo per ridere in uno scenario di morte, come ci hanno accusato alcuni di fare, ma dite pure la vostra. Ma il tema è ben sviluppato oggi dai giornali. Il Foglio, per esempio, in prima pagina: quanto è difficile vincere una guerra coi ribelli che si sparano sui piedi. Questo è il titolo di un editoriale del Foglio, che poi dice: per carità, non mandate armi ai ribelli della Libia. La domanda che aggiungo io e che c'è sui giornali è questa: ma chi sono questi ribelli? Perché adesso pare che Al-Qaeda abbia sposato questa rivolta. Chi armiamo? A chi diamo le armi? Ecco, magari prima di dare le armi a qualcuno bisognerebbe porsi anche questa domanda. Tra l'altro c'è il mistero del ministro degli esteri di Gheddafi, Moussa Koussa, che è dato a Londra in un viaggio davvero misterioso. Beh, lasciamo i temi internazionali anche per andare all'apertura del Sole 24 Ore, come detto, un tema finanziario, economico più che altro. abbastanza inquietante nel titolo, una ricerca Ambrosetti su Basilea 3, cioè le nuove regole delle banche, fa titolare al Sole Basilea 3, crescita a rischio. Perché? Perché come a pagina 3 racconta bene Maximilian Cellino, c'è un rischio credit crunch, cioè un'implosione del credito, da 436 miliardi. Secondo questa ricerca Ambrosetti, se le banche, quando le banche applicheranno le stringenti norme di Basilea 3, la rivoluzione normativa non sarà indolore per i clienti, siano essi famiglie o imprese. Rendere il sistema finanziario più stabile a prova di crisi future ha del resto un costo, e in chi pagherà il costo, questo aggiungo io, domanda retorica, ovviamente sempre le imprese e i clienti. E dunque il rischio di un credit crunch da 436 milioni, un impatto sui prestiti, certo non sarebbe questa stretta creditizia un qualcosa che può essere vista con favore, con entusiasmo da parte delle imprese, ma anche dei privati. Tra l'altro, a proposito di politica economica, c'è un qualcosa che sta facendo il governatore del Veneto, comunque sta studiando un'ipotesi. Il governatore del Veneto sta facendo molto discutere. La trovate a pagina 19 del Corriere. Aumentare l'IRPEF per i redditi più alti. La mossa di Zaia fa arrabbiare il PDL. C'è il buco della sanità da ripianare. Tra i 42 e 62 milioni, a fronte di un bilancio da 8 miliardi di euro, e allora si pensa addizionale IRPEF, l'esborso supplementare. Però Zaia dice così: credo che se a pagarlo fossero i redditi oltre i 50.000 euro non sarebbe uno scandalo. Insomma, scrive il Corriere, fedele alla sua fisionomia di laburista padano, il governatore non avrebbe esitazione a mettere mano a quei redditi medio-alti che sono, sembra, l'elettorato d'elezione del PDL. Secondo la sempre puntuale ufficio studio del CGA di Mestre, interessati sarebbero 126.000 contribuenti veneti, il 4,5%, che sborserebbero 520 euro all'anno su base dell'addizionale di 1,4%. Un gettito che sembra fatto apposta per tappare il buco, 65,4 milioni di euro. Dunque un addizionale IRPEF, ma non su tutti, ma sui redditi medio-alti, proposta dal governatore padano del Veneto, Luca Zaia. Che fa molto discutere. Il PDL dice: per carità, se il capogruppo del PDL Dario Bond, se fa questa cosa, se non corregge la rotta, il presidente dovrà assumersi la responsabilità di una rottura. In fondo un po' è simile al tema che avevamo affrontato i giorni scorsi, no? In modo molto diverso, la proposta della CGIL, una tassa sulla ricchezza, cioè far pagare un addizionale IRPEF per coprire il buco della sanità, ma non a tutti, solo a quelli che hanno da un certo reddito in su. Così la vede il governatore del Veneto, Zaia. Chiudiamo tra tre minuti. Sì, tra due minuti. Bene, allora voglio solo segnalare la questione di Trovate Molto, del delitto di Alberica Filo della Torre, il delitto di 20 anni fa, il delitto dell'Olgiata. Pare che siano schiaccianti le prove nei confronti di Winston Manuel, l'ex filippino che lavorava per la contessa, il sangue del domestico sul lenzuolo della contessa, così a pagina 23 del Corriere. Pare che il colonnello del RIS di Roma, Luigi Ripani, abbia fatto centro. Un test del DNA ha rivelato una perfetta coincidenza, al di là di ogni ragionevole dubbio, su una macchia di sangue che era lì, e in 20 anni, dice il consulente, era la pistola fumante e nessuno, incredibilmente, l'ha notata. È stata ignorata questa traccia per 20 anni. Tra l'altro, su Repubblica, lo stesso filippino che si vede nelle foto, invecchiato, ovviamente invecchiato di 20 anni, un po' più bolso nel viso, ha fatto 3 figli nel frattempo. Pensate che una delle figlie l'ha chiamata Alberica, proprio come la vittima. Fa pensare questo, poi ognuno pensi quello che vuole, però fa pensare. È stato portato dai carabinieri, è arrivato alla casa dell'Olgiata e ha detto: ma non sapete quanti ricordi, quante volte sono stato qui, che brutti ricordi, che brutti momenti, se ci ripenso. Poi però si è reso conto che era lì perché la sua posizione è passata da indagato e poi ad arrestato. Perché mi fate questo? Cosa ho fatto? Che sta succedendo? Si è fatto prelevare il DNA, gli hanno detto la prova è schiacciante, e lui in lacrime: non mi ricordo, davvero, non mi ricordo proprio, non so perché il mio sangue è lì, in quella stanza. Tace e piange, racconta Federica Angeli su Repubblica, pagina 22. Certo, Vittorio Feltri si chiede in prima pagina del Libero: il DNA dopo 20 anni, che prova è? Vi lascio con questa domanda. Bruno Vespa alle 8:20 sarà nostro ospite per l'intervista, mentre il rimpasto di governo è il tema del sondaggio. Il Giornale Radio.